edizione. 6, 14 minuti e 20 secondi, adesso è il momento della viabilità, ci ritroviamo subito dopo per un quadro dei quotidiani oggi in edicola. Prima edizione. Sono le 6 e 16 minuti, diamo dunque un'occhiata a quello che troviamo oggi nei quotidiani in edicola. Il Sole 24 Ore ha come apertura di questo di questa edizione, che è di fatto uno speciale rischio Italia e mercati, questo titolo a caratteri cubitali, fate presto, e un editoriale a firma del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Giusto sopra questo titolo c'è la cosa alla quale ci si riferisce, ossia i due numeri principali di ieri, con quelli con i quali si è chiusa la giornata: lo spread tra BTP e Bund a 552 punti e il rendimento del BTP a 10 anni al 7,25%, quel livello che viene considerato pericoloso dagli investitori. Altri due titoli sempre in prima: BTP al 7,25%, spread record, il caso Italia affonda le borse, e poi dall'altra parte il versante politico. Governissimo, Berlusconi apre, Monti è in pole position, il punto di Stefano Folli oggi è intitolato La riserva della Repubblica. Il Corriere della Sera: governo verso l'incarico a Monti, mossa di Napolitano, apertura di Berlusconi, ma nel PDL c'è forte tensione. Fatto dimostrato, come vi riferivamo poco fa all'interno del giornale radio, anche dagli esiti del vertice di questa notte, nel quale appunto una parte del Popolo della Libertà avrebbe dimostrato una contrarietà appunto al governo tecnico. E il titolo dell'editoriale a firma del direttore Ferruccio De Bortoli è Possiamo farcela. Il retroscena di Marzio Breda, così il Colle rassicura Bruxelles. A centropagina titolo sui tassi del BTP oltre il 7% e debito in zona rischio, e ci sono anche una serie di pezzi, tra cui un'intervista a Frattini che dice urne no, bisogna salvare il paese, e le baruffe tra Brunetta e Tremonti firmato da Gianantonio Stella. La Repubblica, dramma in borsa, in campo Monti, Napolitano lo nomina senatore a vita in pole position per il nuovo governo. La svolta del Quirinale è il commento a firma di Massimo Giannini, e poi anche qua naturalmente la giornata da incubo per i BTP, per i titoli di Stato. Diario della crisi a firma di Claudio Tito, con il Cavaliere che dice è finita la seconda Repubblica. Da segnalare anche i titoli che riguardano la resa sul bianco, così la chiama Repubblica, trovati morti gli alpinisti dopo 5 giorni, come insomma abbiamo anche raccontato nella giornata di ieri, e i titoli che riguardano Balotelli, il bad boy, scrive Maurizio Crosetti sulla Repubblica, il bad boy costretto ad essere leader. La Stampa, mossa del Colle, spunta Monti verso un governo guidato dal professore, si lavora ad un sostegno che vada dal PDL al PD. L'antidoto al crollo del sistema è il titolo anche qua del direttore Mario Calabresi. Le interviste sono a Veltroni, che dice è perfetto, serve uno che non contratti poltrone, le elezioni sono una follia. E un'intervista a Bill Clinton che dice tagli subito, Roma non è Atene, ma se non abbatte il debito precipiterà. Stipendio, e poi c'è un titolo sul maxi emendamento, ne parleremo più avanti, tra l'altro dei contenuti del maxi emendamento. Stipendio all'80% agli statali in esubero, pensioni confermati i 67 anni. Praticamente quindi anche qua prima pagina interamente dedicata a queste vicende. Il Messaggero, governo verso l'incarico a Monti, Napolitano lo nomina senatore a vita, Berlusconi apre no degli ex AN e della Lega, come già appunto vi riferivamo nel giornale radio. E poi a centropagina crolla la borsa, spread da record, e riferisce anche una notizia che riguarda Roma, il Messaggero, con una ampia foto: sciopero selvaggio, metropolitana in tilt. Ed è una vicenda naturalmente di ieri. Poi c'è ancora la vicenda Finmeccanica. Ieri, come sapete, molte intercettazioni c'erano sui quotidiani. C'è un titolo, il faccendiere Finmeccanica, così aiutai la scalata di Gheddafi. A parlare è Lorenzo Cola. Diamo un'occhiata anche ai quotidiani internazionali, particolarmente importanti naturalmente in questi giorni. Tanto il New York Times quanto il Washington Post parlano ampiamente del tema, anche perché i timori adesso sono che la crisi si estenda agli Stati Uniti, e in effetti quello che è successo in Italia ieri ha avuto un impatto decisivo sull'andamento della borsa americana. Quindi è su questo tema che titola il New York Times. Il Washington Post ve lo segnaliamo per questa espressione che usa all'interno dell'articolo dedicato all'Italia. Dice: l'Europa sta iniziando a prendere a partire con azioni aggressive per affrontare questo tema del debito, tanto da mandare un team internazionale to babysit Italy, così scrive il Washington Post, insomma fare da babysitter all'Italia. Il Financial Times titola sui timori che la crisi italiana si estenda appunto agli Stati Uniti. Racconta lo Standard & Poor's 500, l'indice americano che cade mentre i rendimenti dei titoli di Stato italiani arrivano oltre il 7,5%, ampio spazio anche a quelli che saranno i prossimi scenari per l'Italia. Il Wall Street Journal titola invece proprio sul farsi più rapido dei provvedimenti anticrisi nel nostro paese, e poi la paura italiana che scuote gli investitori internazionali. Il Telegraph ha una visione diversa da quella che del Washington Post, della quale dicevamo poco fa. Perché? Perché il titolo è disastro finanziario italiano, l'Italy's Financial Meltdown. E mentre Roma brucia, l'Europa giocherella. Il titolo è esattamente questo. Il Times invece sceglie il lato politico, un'uscita anticipata per Berlusconi dopo il collasso dei titoli di Stato, e un po' più basso il tema su Le Monde, che più che altro si chiede, e anche qua si sceglie l'aspetto politico, quale Italia ci sarà dopo le dimissioni di Berlusconi. Interessante la lettura che dà Il País, perché lettura come dire puramente politica, una lettura del resto che danno tanti anche in Italia. Napolitano prende le redini dell'Italia, questo è il titolo che sceglie Il País, mentre il Guardian, cioè la preoccupazione, la crisi del debito europeo si sta avvitando in una spirale fuori controllo. Questo è il quadro dai quotidiani italiani e dai quotidiani internazionali. Ci ritroviamo tra un attimo con il giornale radio, dopodiché andremo negli Stati Uniti per sentire che cosa ha detto Barack Obama, sentiremo come stanno prendendo queste vicende i cinesi e poi anche reazioni alle vicende di mercato. A più tardi. Prima edizione. 6:33 minuti, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchessi. Oggi è il 10 novembre, quella che state ascoltando è la prima edizione di Italia in controluce. Giovanni Allevi, artista conosciuto in Italia, in pochi anni balzato ai vertici delle classifiche, ora al mercato italiano non gli basta più, così va a Parigi, lo ha incontrato Nicola Accard. Adesso suonerò questo brano che si intitola Tokyo Station, che ha la forma della sonata di Domenico Scarlatti, ma il contenuto ritmico è proprio di oggi. Anche le signore del fan club venute apposta dall'Italia sono esterefatte. Giovanni Allevi inizia il suo concerto con un'intervista sul palco. Vuole presentare anche a Parigi, dove ancora non è famoso, la sua battaglia per la musica classica contemporanea. La stessa battaglia spiegata nel suo ultimo libro, Classico Ribelle, scritto per rispondere ad alcuni giovani musicisti che lo avevano contestato al Conservatorio di Milano. È una risposta, ma vuole essere una risposta luminosa, positiva, positiva, e dire a quei ragazzi che mi hanno apostrofato che io faccio il tifo per loro, che io davvero ho a cuore quello che è il loro futuro e che la loro reazione è una paura che comunque non devono avere, perché l'artista è come l'albatros di Baudelaire, cioè deve essere avvezzo alle tempeste. Se si sente goffo ed impacciato e spaventato da questo mondo, è giusto, perché è una persona che ha una sensibilità superiore, ma deve avere il coraggio di prendere il volo, di spiccare il volo anche con le proprie gambe. Lei ha sempre tenuto innanzitutto a definirsi un innovatore, però non ha mai rinunciato a definirsi anche un erede della musica classica. Allora, ci crede se le dico che non ho mai affermato queste cose? Cioè, non mi sono mai definito un innovatore, sarebbe presuntuosa. Sono state parole che mi sono state affibbiate, perché comunque c'è quel mondo che ha bisogno di un nemico, no? Allora abbiamo trovato a Levi che praticamente apparentemente vulnerabile, e allora mettiamogli in bocca delle cose che non ha mai detto. Però, sconfessando quello che ha appena affermato, sì, in un certo senso sono un innovatore. Però ancora non è chiaro che cosa significa innovazione. Non è così scontato affermare che cosa sia il nuovo, soprattutto all'interno della tradizione della musica classica. Cos'è il nuovo? Nel Novecento si è perseguita l'idea che il nuovo sia il complicato, l'incomprensibile. Invece per me il nuovo è il semplice, che è complessità risolta. Devi passare attraverso la complessità per ottenere un distillato puro, che è la semplicità. Mozart, eccolo, è l'esempio perfetto. E la Italia in controluce per quest'oggi 10 novembre, torniamo alle 13.30 su Radio 24. Le 6:36 e 25 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Prima Edizione. Adesso vogliamo fare un quadro di come viene vista la situazione italiana dal punto di vista internazionale. Tra un momento andremo a New York per sentire cosa ha detto questa notte Obama. Tra l'altro se ne è parlato anche nel dibattito dei repubblicani che c'è stato ieri sera, si è parlato di Italia. Intanto però vogliamo capire che cosa ne pensa la Cina, spesso chiamata in causa come possibile cavaliere bianco per il salvataggio di alcuni paesi europei, tra cui anche l'Italia. Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, Osservatorio Asia che tra l'altro oggi riunisce il suo 8° convegno annuale, organizzato insieme alla Camera di Commercio di Milano. Alberto Forchielli, buongiorno. Buongiorno. Allora, i cinesi come la stanno vedendo questa fase e questa giornata che abbiamo vissuto, che è stata oggettivamente molto difficile, molto dura? La vivono con preoccupazione, ma anche con speranza, perché la Cina non ha mai nascosto una profonda disistima che rasenta il disprezzo nei confronti di Silvio Berlusconi. Questa è una lunga storia, ma viene soprattutto, al di là delle gaffe, dal fatto che Berlusconi ha fatto 19 visite di Stato in Russia, ha sempre apertamente lodato Putin e non si è mai degnato di un gesto simpatico nei confronti della Cina. Queste sono cose che nel mondo diplomatico pesano. I giornali, sia quelli ufficiali che quei libri di Hong Kong, sono sempre stati pieni nell'ultimo anno dei pettegolezzi, delle gaffe, delle cose più incredibili commesse dal nostro primo ministro, per cui vedono con speranza l'uscita di Berlusconi dalla scena, e questo apre una possibilità di intervento cinese che sarebbe stato impossibile finché Berlusconi fosse stato al suo posto, e diventa meno improbabile una volta che Berlusconi se ne vada. questo è un dato di fatto inequivocabile. E questo è un elemento importante, ma il livello di probabilità che la Cina entri sul debito, perché su questo si è discusso molto e ci sono state molte indiscrezioni, Forchielli. Il livello, la Cina entrerà nel pacchetto di supporto alla crisi europea una volta che ci sarà un accordo a livello di Fondo Monetario Internazionale, e comunque la Cina entrerà in misura leggermente inferiore a quella tedesca. Grazie, grazie dunque ad Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, per essere stato con noi. Appunto, oggi c'è l'ottavo convegno annuale dell'Osservatorio Asia che si svolge a Milano. Noi adesso ci spostiamo a New York per capire appunto come la stanno vivendo. Ci sono state questa notte le parole di Obama. Buongiorno e buonasera, buonanotte per te a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Mario. Buongiorno, buongiorno caro Simone. Devo dire una nottata piuttosto turbolenta quella che ho vissuto qui a New York, perché è stata densa di notizie, a partire dall'intervista del presidente Barack Obama, in cui ha fatto dichiarazioni sull'Italia, un'intervista concessa all'ANSA, quindi supra partes all'agenzia di stampa italiana, in cui fa delle distinzioni fra Italia e Grecia, in cui cerca di frenare queste sensazioni di paura che si sono diffuse sul mercato. Abbiamo visto tutti quello che è successo ieri con il balzo dello spread sul Bund, dunque la borsa americana ha perso il 3,2%, 400 punti quasi, l'indice Dow Jones. Insomma, c'è stata molta paura in America per quello che è successo ieri in Europa, e questo contagio va avanti, c'è e non c'è niente da fare. Obama è molto preoccupato, perché se questa cosa va avanti inevitabilmente le economie si indeboliscono, lui stesso ne soffre, perché l'economia americana non cresce ai ritmi a cui dovrebbe crescere per poter creare occupazione, e dunque se da qui ai prossimi 3, 4, 5, 6 mesi le cose non migliorano, lui avrà dei problemi seri quando dovrà essere rieletto. Ecco, questo intervento va visto per tranquillizzare i mercati, ma va visto anche un po' pro domo sua, per cercare di spronare l'Europa a fare quello che non ha fatto. L'Italia non è la Grecia, ha detto che l'Italia ha un problema di liquidità, ma non ha un problema di solvenza. Ha detto che l'Italia è un paese ricco, un paese con una grande struttura industriale. Devo dire, ha ripetuto un po' delle cose che ci aveva detto a casa quando siamo stati al G20. E un'altra cosa mi ha colpito, perché mentre il presidente faceva un discorso serio, un discorso in cui metteva i puntini sugli i, c'è stato invece il dibattito fra i repubblicani, e guarda caso di che cosa si è parlato in questo dibattito fra i repubblicani. Si è parlato di nuovo di Italia. La prima domanda che è stata fatta è stata una domanda sull'Italia, e tutti i candidati più o meno hanno cercato di barcamenarsi, devo dirti non necessariamente benissimo, sparando certe volte delle cose che non sono in giro all'interno. Rompol ha detto il debito italiano deve essere liquidato. Ecco, ho l'impressione che in campo repubblicano le idee non siano chiarissime, quelle del presidente Obama almeno lo sono. Grazie, grazie, grazie dunque anche a Mario Platero per questi aggiornamenti della notte, appunto, e per questi chiarimenti. E saluto adesso anche Giuliano Noci, economista del Politecnico di Milano. Grazie professor Noci per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, le faccio sentire una voce e poi la commentiamo. È quella di Giovanni De Censi, che è presidente del Credito Valtellinese, che è intervenuto ieri a Focus Economia. È intervistato da Sebastiano Barisoni, che gli ha chiesto, insomma, ha mai visto qualcosa di questo genere? Questo non l'ho mai visto. Non mi era mai successo di vedere, o quantomeno quando c'era una bufera c'erano interventi di stabilizzazione che venivano sul mercato con provvedimenti immediati. Ecco, la differenza rispetto se è stato troppo tempo a bagno in questa situazione. Sono 3 mesi che stiamo aspettando decisioni che invece non compaiono, e poi dopo facciamo in fretta a dire certo oggi dipendiamo più da Bruxelles che da Roma. Però quando Bruxelles parla poi bisogna eseguire, insomma, se siamo entrati in una comunità europea bisogna stare anche allineati, anche se poi escono delle normative come quelle che riguardano il livello della capitalizzazione, che in un momento come questo penalizzano proprio le banche italiane rispetto alle francesi e alle tedesche. A fronte di queste situazioni occorrono risposte tempestive e immediate che dimostrino la volontà di voler il continuare a rinviare i provvedimenti. Qui siamo in un'economia di guerra, qui bisogna intervenire e decidere. Oggi facciamo questo, si convoca il Parlamento e si decide, punto. E lei, professor Noci, una giornata come quella di ieri l'ha mai vista? No, io ho meno esperienza da 2 decenni, comunque sono molto d'accordo sul fatto che la situazione richiede interventi assolutamente tempestivi. Purtroppo la politica italiana soprattutto non si è resa conto che le decisioni, qualsiasi decisione ha delle interne a livello nazionale, innesca delle controreazioni a livello internazionale. I 3 mesi in cui siamo stati a bagno, come diceva il dottor De Censi, sono 3 mesi che rischiano di far pagare un conto molto salato alle banche e al sistema industriale italiano. Quindi quanto mai opportuno è agire ed agire subito. Prima edizione. 6, 46 minuti e 42 secondi, professor Monti, sì, professor Noci, appunto. Le chiedevo se le decisioni di ieri sono in grado, secondo lei, di convincere i mercati, di riportare la situazione, di raffreddare la situazione. Ho la sensazione che di no, nel senso che certamente quello che è successo ieri ha contribuito ad accelerare una presa di coscienza. Ritengo però che l'innalzamento a 67 anni della pensione, che entrerà, ricordi radioascoltatori, regime nel 2026, la paventata vendita di parte del patrimonio pubblico, che secondo me è estremamente difficoltosa, perché quando qualcuno vende poi si è sempre in difficoltà a trovare prezzi di mercato ragionevoli, e soprattutto in questo momento, io ritengo che purtroppo, nonostante andremo entro domenica a un varo di un maxi emendamento, a quanto meno lo spieghiamo, non sarà sufficiente, ed è per questo che vi è veramente da augurarsi che gli altri temi che sono sul tappeto, ad esempio quello del lavoro, vengano affrontati con senso di responsabilità nel corso delle prossime settimane, altrimenti il dottor De Censi avrà ragione e probabilmente avremo una sorta di guerra finanziaria sul nostro paese. Grazie a Giuliano Noce, economista del Politecnico di Milano, che ci ha chiamato il prossimo argomento, quello col quale chiudiamo, ossia i contenuti del maxi emendamento. Dalla stretta sugli enti locali all'aumento dell'età pensionabile, passando per gli incentivi all'assunzione di giovani e donne, dismissioni, defiscalizzazioni, liberalizzazione delle professioni, riforma del processo civile. Niente norme sui licenziamenti. Eccole le misure anticrisi del maxi emendamento alla legge di stabilità. Dal 2013, prima novità, anche gli enti locali dovranno contribuire alla riduzione del debito pubblico. Ogni regione, comune e provincia avrà un obiettivo annuale da raggiungere e sarà tenuta a rispettarlo. Pena le sanzioni previste per chi sfora il patto di stabilità, contingentamento delle spese correnti e stop alle assunzioni. Dal 2026 l'altra novità: salirà a 67 anni l'età minima per le pensioni di vecchiaia, sia per gli uomini che per le donne. Previste dismissioni degli immobili pubblici, il 20% almeno riguarderà carceri inutilizzate e caserme. Saranno tutti individuati con un decreto da emanare entro aprile 2012. Dismissione anche di terreni agricoli di proprietà dello Stato. Ribadita la mobilità per i dipendenti pubblici ritenuti in soprannumero, in caso di mancata ricollocazione scatterà la cassa integrazione pari all'80% dello stipendio, per un massimo di 2 anni. Previsto dal 2012 l'azzeramento dei contributi sugli apprendisti per i primi 3 anni di contratto, poi l'aliquota sarà del 10%. Introdotte inoltre agevolazioni sui contratti di inserimento per le donne, facilitazioni per part-time e telelavoro. Per i professionisti arriva lo stop alle tariffe minime e al divieto di pubblicità, insieme al via libera per la costituzione di società di capitale. Il pacchetto infrastrutture prevede infine la defiscalizzazione per la realizzazione di nuove autostrade. E per diminuire il contenzioso civile pendente, nei processi davanti alla Cassazione e alle corti d'appello in corso da oltre 2 anni, le parti saranno chiamate a confermare la persistenza dell'interesse. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è così che chiudiamo questa puntata di prima edizione. Grazie a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.